mamma di una razza speciale. Che qualcosa canta. Però forse un po' le piace questa fama di persone che non sa come mai. Anche se per se succede, se dovremmo per le mese guai. Però forse anche la metà sabato può essere per te di quello che succede. E per questo che c'è proprio niente che ne fa se sopravviverci tranquilli. Mi altri poi musulu arrangiasse, ma qualche un po' in un caffà. Foscia, pagemo un po' troppo severi. Che qualcosa canuva. Però foscia un po' che piace questa mamma che nessuno non sa come mai. Anche se per se succede, se tu vengo per le cose guai. Però foscia anche la mia tassa vuota per servire per me di quello che succede. Speciale che qualcosa canta. Però forse a volte piace.